di me. Nella mia barba sei nel mio caffè, nel cruciverba sei negli occhi suoi, ma non ci sei il mio lavoro, il cinema con lei, le mille lire, e nel mio letto sei fare l'amore, ma non ci sei. Passo le mie notti fumando a luci spente e respirarti sento, ma non sei venuta qui. Più spettina, poi hai detto sì, io ti ho tradito, sei quello che sei, ma non ci sei. Sei la nostalgia davanti al fuoco, sei la mia bugia, se marcio poco, sei a luci spente e respirarti sento, ma non ci sei, la gatta grigia nel mio pigiama, sei la mia valigia per chi ti ama, sei quello che sei, ma I'm